quanti. Questa biblioteca organizza settimanalmente degli incontri per far conoscere il più possibile le persone ai nostri servizi, per favorire l'incontro con autori, autrici, per favorire anche la lettura. Quindi insomma è un tentativo che facciamo e che vediamo anche portare sempre dei buonissimi risultati per far conoscere anche la biblioteca in sé come concetto, come ente, come istituzione, in quanto appunto è un luogo dove ci si può scambiare delle opinioni, formare un percorso, scoprire sempre delle nuove cose degli altri, ma anche di se stessi. Vero. E in questo devo ringraziare questa sera, anche a nome dell'assessore Tomasini, che è il presidente di questa biblioteca, le nostre due ospiti, Nadia Scappini e Bruna Maria Dallago Veneri, che in particolare, ecco, la signora Dallago Venere ci aiuta da anni, ci fa compagnia, ci accompagna in questi percorsi con la sua saggezza, professionalità, ma anche con questo amore, questo aspetto magico che conferisce alle iniziative. Me lo lasci dire, perché dopo non sarò più capace di parlare. Siamo reduci da un'altra presentazione la settimana scorsa ed è sempre palpabile questa atmosfera che poi si viene a creare in queste occasioni. Sulla sedia, come di consueto, lasciamo un modulo di iscrizione perché è un accesso libero, ma abbiamo bisogno eventualmente di poter iscrivere le persone a titolo gratuito, chiaramente eroghiamo questi servizi, e poi anche per mandare queste cartoline che sono i nostri inviti settimanali alle iniziative. Ne trovate una sulla sedia, però anche giovedì questo ci sarà alle ore 18 un percorso di immagini, druso, il germanico, l'Aquila e la fondazione di Bolzano. Lunedì 15 ci sarà un filmato sulla Shoah in Albania, ecco, quindi sono dei documenti anche inediti. E poi giovedì 18 avremo Epistemologia dell'intercultura, la costruzione della culturale della realtà. Quindi, come vedete, da una serata dedicata alla narrativa e passiamo poi a temi storici, a temi anche di portata internazionale, come poteva essere appunto il discorso della Shoah in Albania, fino a temi filosofici. E anche sulla filosofia ci stiamo concentrando, infatti questo giovedì avremo l'inizio di un percorso di leggere, ascoltare, agire, pensare, insomma incontri psicocognitivi e un approccio alla filosofia. Ecco, questo però alle 15:30, un orario un attimo diverso, meno serale, più pomeridiano. Ecco. Ringrazio le nostre ospiti, mi prendo posto qui davanti e buona serata a tutti, grazie di essere venuti qui in biblioteca. Grazie, grazie. Allora, comincio io, visto che sono colei che introduce la mia carissima amica Nadia Scappini, amica da tanto tempo, e la cosa più buffa e più bella forse che possiamo ancora raccontare è che in fondo in questa biblioteca, la direttrice ha un po' introdotto questo tema del colloquio, della familiarità in qualche modo. Ecco, e sulla familiarità farei un altro piccolo appunto, perché noi ci siamo conosciute perché lei è una compagna di università di mia cugina, dal ginnasio in poi, tutto molto legato nelle cose, e molti di quelli che sono venuti sono suoi parenti eccetera. Questa che viene come sempre è la mia figliola, molto presente. È così, proprio tutto estremamente, non arrabbiarti subito appena entri, perché poi mi sgridano, poi mi picchiano, voi non lo sapete. Ecco, comunque questa è una cosa che ci tenevo a dire. Lì io ho conosciuto Nadia Scappini molti molti anni fa, abbastanza anni fa, e l'ho conosciuta soprattutto nella sua veste che secondo me era la sua veste principale, cioè nella sua veste di poetessa, così io l'ho conosciuta. E siccome io ho una sacra ammirazione per coloro che scrivono poesie, io trovo che la poesia sia il massimo di tutto, e che naturalmente il massimo della prosa è di essere più poetica possibile, questo secondo risvolto, perciò questo era la mia, quello che io sapevo di lei. L'ho seguita nelle sue opere di poesia, tutte quelle che ha pubblicato, che mi sono sempre piaciute moltissimo, e perciò questo era il mio approccio con lei. Quando? L'anno scorso, un anno e mezzo fa, sì, circa un anno e mezzo, quasi due anni fa, ci siamo sentite, e appunto Nadia mi ha detto: sai, mi sono messa a scrivere un romanzo. Del tutto casualmente. Cosa ho detto io? Sì, mi sono messa e dico: brava, fai bene. E così, piano piano, e questo l'ho anche detto nella presentazione che ho fatto sul giornale, ho seguito quasi dalla nascita questo evento, questo racconto. E devo dire che è una cosa che è riuscita in maniera non sorprendentemente bene, sai, proprio te lo meriti, in maniera assolutamente bene, molto corretta e molto bene, molto coinvolgente, pur mantenendo, e quello che a me piace in maniera particolare in tutto questo tuo libro, difatti alcune parti poi ne sentiremo, pur mantenendo questa cura, questo gusto, questa poeticità della parola, che per me è il massimo della scrittura. Allora, questo in quanto in generale il discorso. Naturalmente Nadia Scapini abita a Trento, e a Trento è stata presentata molte molte volte per questo libro, e questo libro ha un grandissimo successo, e questo mi fa anche molto piacere, lo voglio dire, perché è già stata segnalata al premio, cioè ha vinto il secondo premio, dico, al premio Cortina, e adesso è segnalata ad altri premi, dei quali penso sarai senz'altro, spero, ti auguro, che mi vedremo, più premi non si sa mai che cosa dire, ecco, quello che è. Comunque sono contenta di queste presentazioni, perché te le meriti, soprattutto questo Asti d'Appello, che io non sapevo neanche, ecco, che è un premio molto importante. Si chiama d'appello perché sono giurati alcuni magistrati, io sono stata affidata a Nordio. Pensa. Sue mani, so che dovrò tenere una ringa di 5 minuti in mia difesa per convincere, che poi avranno già votato, insomma, i giurati sulla opportunità di votare il mio libro, però poi ci sono anche, credo, in totale 200 lettori che sono iscritti appunto a questa associazione, e anche alcune classi degli istituti superiori di Asti, quindi è molto corale, insomma, questa giuria. Molto, molto, e poi una giuria molto importante. È stata una grande sorpresa, ecco. Sì, perché è stato Sinigaglia a volermi segnalare, quindi dai. No, mi fa molto, molto piacere, e ti dico tutto il merito di questo discorso. Ecco, io perché vengo subito a farti non solo delle domande, ma a dire quali sono le cose che a me, personalmente a me, come lettrice in questo caso, sono state più interessanti o più mi hanno colpito di più. Allora, io ho fatto lo faccio sempre, una piccola premessa. Io sono convinta che piaccia e convinca quello che più ti tocca, questo sicuramente. Allora, della bellezza della parola ho già parlato, di questa tua arte di tessere ordito e trama, cioè questo racconto che si intreccia, e qui ho fatto un accenno a questa bellissima figura in copertina, che è anche una treccia e anche un intreccio, perciò su questo gioco di parole ho un po' pasticciato, ecco. Comunque questo, quello che più mi ha colpito sono alcune tematiche di questo tuo lavoro, e queste tematiche sono molto importanti, perché sono tematiche che in fondo seguono, parliamo adesso della città di Bolzano, seguono anche molto un itinerario bolzanino, cioè questo Istria, Polesine, non sono parole strane o parole lontane, neanche ai cittadini di Bolzano. Prima di tutto, nel 57, sorelle, siamo andati in Polesine, 57? A parte sì? Ecco. Comunque lì c'è stata la grande alluvione, perciò avvicinarsi a questa terra è stato per noi una cosa molto importante. prima, 57, 57 giusto? L'alluvione? No, sì. 51. 51. 51. No. No, 51, penso, no. Comunque, vabbè, scusate la mia ignoranza di dati in questo caso. Ecco, e poi non solo questo. Potete essere andate più tardi perché no, no, no, no. Sale. Allora non è questo il discorso, ma soprattutto l'importanza anche di questa vicinanza, anche del discorso con l'Istria. Voi dovete sapere che a Bolzano noi abbiamo avuto, noi dico noi mia famiglia, ma noi amici anche nostri, un grandissimo numero di profughi istriani che sono poi, che vivono, che sono cresciuti, che hanno preso radice nella città di Bolzano. Cioè questi due temi, questo tema della lontananza, della diaspora in qualche modo, diaspora di due diversi tipi naturalmente, uno dalla furia della natura e l'altro dalla furia degli uomini, se voi volete il discorso messo così, ecco, comunque hanno senz'altro molto avvicinato. Già questo è stato un tema che mi ha colpito, ma che ha colpito moltissimo anche molti dei tuoi lettori. Penso che già prima comunque a Bolzano ci fosse stata una sorta di emigrazione dal Polesine proprio per conseguenza dell'abbandono delle terre, perché non rendevano più, quindi... Sì, sì, l'alluvione sì, 51, sì. Ma già prima penso certo, che ci fossero sì. stati. Perciò questa, quindi, certo, questa popolazione cittadina fatta anche con queste trame, di nuovo trama ed ordito, di nuovo questo discorso. Poi un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è appunto questa descrizione molto fine, molto, molto particolare, molto sottile dei luoghi che tu descrivi, perché sono luoghi che io non conosco, che conosco poco, ma che attraverso la tua scrittura li ho sentiti molto, molto vicini anche a me, anche come paesaggi, anche come descrizioni di paesaggi. C'è un altro fatto che mi ha colpito molto, questa descrizione di luoghi che tu fai da due punti di vista, o anzi da tre forse. Un primo punto di vista è quello di chi appunto descrive un luogo che gli è caro, perciò qualche cosa che quale fai entrare anche chi legge, cioè il lettore, che è il secondo personaggio della scrittura chiaramente. Fai entrare questi, ma poi non solo, poi li vesti anche letterariamente, qui naturalmente la tua figura di letterata e di insegnante, chiaramente, con riferimenti dotti, e molti di questi riferimenti dotti sono scritti con molta leggerezza, perché io non amo tanto di solito i riferimenti dotti perché mi infastidiscono, ma qui sono fatti con estrema perizia e con estrema leggerezza, te lo devo dire perché è la verità, almeno come l'ho sentito io. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, cioè un'altra delle cose che mi hanno colpito molto, è questa, appunto, questo discorso di partenza, di questa diaspora, cioè di essere fuori dal proprio luogo, di avere questa nostalgia di un luogo che è un luogo sognato in definitiva, che è un luogo anche non conosciuto bene, infatti vedremo anche i personaggi, non è il personaggio principale, non è che conosca molto bene questo suo luogo d'origine, in fondo ne ha solo sentito parlare in definitiva. Ecco, ma questo tentativo di trovare un punto fisso nella vita, che è appunto la ricerca di una casa, cioè la ricerca della casa come luogo fisso, come punto fisso, come luogo dove non soltanto mettere radici, si dice proprio così, ma proprio cominciare a creare qualche cosa che diventi una vita. Senza questo installarsi in un luogo, in una casa, in un posto, come se noi fossimo appunto i custodi di questo luogo, un luogo sognato, un luogo vero, insomma, poi questo dipende, si vedrà. E poi un'altra cosa ancora che mi ha colpito in maniera molto profonda è questa tua, attraverso la casa e attraverso il diventare casa, cioè diventare luogo di casa, di posti altri, entrare nei luogo, nelle sue tradizioni e nei suoi cibi. Questo veramente mi ha colpito, perché il cibo è veramente la cosa che ti fa casa, che ti fa stare in un posto, che ti dà la connotazione di un posto. E quando mangi quel cibo diventi quel posto. Ecco, questo in linea di massima, così come primo colpo, come prima battuta. Ecco, io a questo punto ci terrei moltissimo, perché non voglio essere io, sei tu la prima persona. A me andrebbe bene questa, che continuassero, in questo, in questo presentazione sei tu la prima persona. Ecco, io vorrei che tu prima di tutto ci tracciassi attraverso la tua scrittura, tu hai messo i segni, il luogo, questo luogo che diventa il luogo di quiete, che diventa la casa, che diventa questa scelta in fondo improvvisa, senza un motivo in fondo, ma diventa la scelta di vita, l'incipit di questo libro praticamente. Ecco, allora magari sì, facciamo l'incipit e poi tagliando, perché non voglio tediarvi, arriviamo a capire il perché di questa scelta. Devo dire come premessa che questo romanzo mai avrei pensato di scriverlo, come vi ha detto Bruna Maria, il mio sono arrivata alla scrittura tra l'altro piuttosto tardi, da una decina d'anni, e comunque la poesia è il mio amore e diciamo la strada entro la quale ho mosso i primi passi e intendo muovere anche molti altri passi. Ho scritto, come tutti credo, dei racconti che volevano essere una testimonianza rispetto a mio figlio. Io ho un solo figlio, dico vabbè, lasciamo qualche ricordo, per poi la memoria storica è così fugace, così breve, e quindi avevo scritto dei racconti di questo tipo. Poi direi 5 anni fa oramai, perché il tempo vola, mi trovavo proprio a Giacciano, e Giacciano è il paese di origine della mia famiglia paterna. Noi abbiamo sistemato una piccola porzione della casa dei nonni, della grande casa dei nonni. Mi trovavo lì e mi ci trovavo come da direi una decina d'anni, forse più, anche molto volentieri, al contrario di quello che avveniva durante l'adolescenza, quando c'erano quasi le ferie forzate con i genitori. E lì per la prima volta mi è balzato davanti agli occhi un personaggio in cerca d'autore, questo Livio che poi sarà il protagonista del libro. Per la prima volta, dico, perché ripeto, prima scrivevo così di ricordi eccetera, e chissà perché l'ho capito dopo, insomma, questo figlio di profughi istriani eccetera eccetera, con una sua fisionomia ben precisa, proprio io me lo sono vista fisicamente, e ho scritto di lui, ma ho scritto un racconto che era il massimo per me. E il racconto si è chiuso con l'acquisto, diciamo con il radicamento suo in questo piccolo paese, dove si era sentito a proprio agio, dove in qualche modo aveva sentito delle somiglianze rispetto alla terra d'origine, l'Istria, di cui aveva solo sentito parlare dai genitori. E qui doveva finire. E alcuni mesi più tardi un amico scrittore, critico eccetera eccetera, stava facendo un lavoro su dei racconti, mi chiese di leggerne alcuni dei miei, gliene diedi tre, tra i quali appunto questo, e dopo qualche mese, io ero abbastanza timorosa, oddio chissà cosa mi dirà, arriva e dice: tu qui questo racconto, dice, c'è una storia che preme da tutte le parti, devi farne un romanzo. E io, testuali parole, tu sei pazzo, non ci penso nemmeno, non sono capace, no, eccetera eccetera. No, dice, guarda, veramente, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, sono passati alcuni mesi, questa cosa tutto sommato mi aveva anche un pochino intrigato, dico, ma sarà vero, perché mi dice così, non è il tipo complimentoso, ecco, questo amico. E allora, in momento di pace, ho ripreso in mano il racconto, ho provato ad estraniarmi, ormai era passato del tempo. E lì è nata la storia, ed è nata, mi si è fatta, insomma, diciamo, sotto le mani, e dandomi anche tanta soddisfazione. Lì ho capito che forse davvero avevo bisogno, lui aveva sentito questa pressione, avevo bisogno di dire attraverso dei personaggi quello che io avevo avvertito in quella terra, in qualche modo avevo bisogno di dire grazie forse alla mia famiglia, e quindi anch'io di trovare in qualche modo una piccola radice, dato che appunto sono di genitori veneti, sono nata in Romagna, poi vabbè, insomma, siamo con la famiglia andati a Trento, poi io i primi anni di matrimonio li ho passati a Trieste, mio marito è di madre slovena e di padre siciliano, quindi a Trento io vivo benissimo, mi trovo bene, però non mi sento trentina. Di dove mi sento? Di dove? Quando vado in Romagna, dove sono nata, mi commuovo, però a forza di andare in questo minuscolo paese ho cominciato a sentire qualcosa di veramente profondo, quindi queste radici, eccetera. Ecco, questa è un po' la premessa. È stato proprio ieri, il 5 di settembre, che ho deciso di comprare casa. Dopo una notte quasi insonne, anche le robinie, sfiorate dalla brezza del mattino, sembravano assecondarmi in un percorso dal quale non potevo più ritrarmi. Altre volte l'avevo fatto, battendo la ritirata all'ultimo momento. Ora no. C'era qualcosa che mi spingeva, qualcosa che mi rendeva determinato. Ma perché lì, in quel paesino del Polesine, dove d'inverno la nebbia ovattava ogni cosa nella sua casta nudità e la galaverna sfilacciava i rami dei pioppi ai primi raggi del sole, facendone creature imploranti al cielo? Non c'era niente di razionale in questa decisione, niente convivenze o matrimoni in vista, pochi soldi da investire, niente legami di sangue con quel posto, solo un bisogno assoluto, intransigente, una voce che da tempo chiamava e chiedeva di piantare radici, di stipulare un'alleanza. In quel posto non avevo legami, è vero, ma in quale altro ne avevo? Saltiamo un bel po' di pagine. Ecco. È qui che ho cominciato a sentirmi in pace con me stesso. Sarà stato il genius loci, la semplicità della gente o il profumo della campagna che mi ha richiamato quella raccontata da mio padre nelle lunghe serate attorno al tavolo di cucina. Su un vassoio che una collega, forse un po' innamorata di me, la voce maschile, mi aveva regalato dopo un viaggio in Germania, c'è scritto, mi perdonino i tedeschi, in einem Augenblick Heimat, in un batter d'occhio patria. Ecco, Heimat è proprio la parola giusta, perché esprime non tanto l'appartenenza nazionale, ma piuttosto un sentirsi a casa. Esattamente quello che avevo provato a Giacciano. E qui c'è la descrizione, un fascino modesto ma intenso, quello che si avverte qui intorno. Non so, la facciamo sì, troppo leggi, lunga? No, leggi questo pezzettino che poi ti faccio altre domande. In primavera, quando le giornate si allungano e le viole spontanee, a macchie generose sugli argini, ai margini dei cancelli, con pudore ricordano che la vita ricomincia, non si può rimanere indifferenti. Una commissione di pace e silenzio, interrotta solo dal canto delle tortore. Tra l'ombreggiare dei rami, esse sembrano scandire il tempo, annodandolo a quello antico, che segna la misteriosa vita delle cose. Nell'abbraccio dei campi, nelle distese dei frutteti, nel silenzio immobile, attraversato dal canto dei grilli e dal pieno delle cicale, ho sentito di poter trovare la trama di una vocazione fino ad oggi confusa. L'ordito di un progetto da compiere, finalmente. Qui ho trovato la concentrazione giusta per prendere le distanze dai troppi obiettivi che negli ultimi anni mi incalzavano, insinuandomi un sottile disagio. Perché non fermarmi a Giacciano? Sul sentiero che fiancheggia il canale di Fossa Maestra, sotto la mia casetta color pannocchia, tra i cespugli di Sambuco, tra i rovi dei gelsi, nell'intrico di erbe selvatiche legate all'edera tenace, ho colto un universo di segni. Nel loro turgore sembravano offrirsi alla mia distrazione, chiedendo di essere districati, di innestarsi sulla mia vita come linfa e radici. Mi dicevano l'urgenza di catturare la sostanza delle cose, di lasciarmi guidare dalle mie antenne invisibili, finora soffocate dal vivere affannato. Benissimo, io quando mi ha mandato le primissime pagine, tra il resto, e ho letto questa frase, io ho detto, beh, io questo libro lo leggerò tutto. La frase che, lì in quel paesino del Polesine, dove d'inverno la nebbia ovattava ogni cosa nella sua casta nudità, e la galaverna sfilacciava i rami dei pioppi ai primi raggi del sole, facendolo creature imploranti al cielo. Beh, da qui in poi ho detto, vabbè, basta, so già tutto. Ecco. Grazie. Ma scherzi. Questa, la storia, che non è una, naturalmente la leggerete, è una storia in definitiva che ha molti Io per quello ho usato questa metafora del telaio, perché è proprio un ordito e trama, cioè sono molte le cose che si intrecciano in questo racconto. Allora abbiamo detto la nostalgia, il desiderio del ritorno, il desiderio di trovare casa, il desiderio e poi anche una storia fra questi due personaggi, perché trovare casa e il desiderio del ritorno e l'appagamento di questo desiderio finiscono con l'aprire, e questo io credo che sia estremamente vero, anche alle possibilità verso l'altro, cioè aprirsi verso l'altro, perché evidentemente la storia di questo personaggio maschile che si chiama Livio è una storia di uno che non si è mai aperto veramente verso l'altro per questioni familiari tremende, per cose veramente di tutti i tipi, e poi anche con questo desiderio però di trovare casa, di trovare luogo, che è riferito in primo tempo ad un amico, e tutta la storia di questo paese è una storia di amicizia, perché è anche una storia d'amore, ma è soprattutto una storia di amicizie, non di amicizia, ma di amicizie, un'amicizia di bambino, eccetera. Ecco, anche questa parte mi piacerebbe se tu ce la illustri con un po' di storia, un po' di parole. Sì. No, diceva appunto Bruno che ci sono molti temi, insomma, molte situazioni in questo libro che mi sono capitate tra le mani e ho cercato di dipanarle, insomma, come meglio potevo. Una delle possibilità, appunto, dice, ma di cosa parla in questo libro? Sì, c'è anche una storia d'amore, forse questa è la lettura più banale, ma è la storia di amore tra due persone che hanno una vita travagliata, molto segnata dal dolore per ragioni diverse, alle spalle. Quando entrambi hanno veramente costruito la propria vita, si sono ricostruiti cercando di uscire dal dolore, di intessere delle relazioni positive, quando hanno trovato quella che io direi anche una stabilità logistica, appunto Livio a Giacciano e Cosetta è la protagonista femminile, rientra a Ferrara, la sua città di origine, di nascita di origine, dove aveva vissuto fino a un certo momento, quando poi si era sposata, era andata nelle Marche, insomma adesso non vi sto a dire la trama, e poi era rimasta vedova giovanissima, quindi entrambi avevano trovato, diciamo, una stabilità, una casa, ripeto, logistica, ma soprattutto una stabilità affettiva attraverso le amicizie. E quando si sono ricostruiti per bene e sono sereni, tac, si incontrano per misteriose vie, e quindi si apre per loro una prospettiva di vita molto bella. Ovviamente sono molto cauti perché hanno raggiunto l'età, diciamo, un'età piuttosto matura, però come diceva Bruna Maria, si aprono orizzonti proprio insperati e iniziano una relazione anche un po' tormentata all'inizio, che comunque li porterà al cosiddetto lieto fine. Allora direi che questo libro si può anche definire una storia d'amore, ma non l'amore di coppia o non solo questo, ma un amore molto più ampio, ed è quello della relazione, perché l'uomo, alla fine mi sono detta, beh, ma cosa diavolo volevi dire con tutte queste storie, questi personaggi? Si capisce dopo che si è scritto, intanto si scrive. È proprio il trionfo della relazione, perché solo attraverso la relazione l'uomo trova compimento, l'uomo e la donna trovano compimento. E diciamo che entrambi hanno incontrato nella loro vita delle persone molto positive che li hanno aiutati ad uscire, insomma, dal loro... così dalle loro situazioni dolorose, ma nel contempo anche loro sono stati disponibili a lasciarsi catturare in questa rete di sostegno, e quindi hanno costruito molto. Quando si erano costruiti per bene, si incontrano e qui c'è un di più, ma non voleva assolutamente essere una storia d'amore. L'infanzia, mi chiedeva Bruna Maria, l'infanzia di Livio, appunto i genitori arrivano a Trento, perché il romanzo parte da Trento, in quanto i genitori, appunto profughi, si stabiliscono a Trento. La madre di Livio è segnata da problemi psichiatrici che si acuiscono dopo una serie di cose, insomma, che non vi sto a dire, ma il bambino trova nell'amicizia di un compagno di scuola, ma soprattutto diciamo nell'accoglienza da parte dei suoi genitori, la sua, come dire, sanità, la sua salvezza. Lui si rende conto solo che questi genitori sono molto affettuosi con lui, lo invitano sempre, che si rende conto che il papà dell'amico Giulio, che ritroverà poi alla fine della storia, insomma già sessantenne eccetera, papà di Giulio è un papà molto presente, lo coinvolge nei giochi, in tutte le feste eccetera. Perché? Perché evidentemente questi genitori conoscevano la sua situazione di disagio familiare. E col senno di poi, appunto, da adulto si rende conto di essere stato veramente salvato grazie a queste persone. Però, come accade a volte agli uomini, non voglio parlare male degli uomini, ma insomma hanno più difficoltà ad esprimere i loro sentimenti e anche a prendere certe decisioni. Quando lui incontra Cosetta, si capiscono, insomma si raccontano le loro storie, sarà Cosetta in maniera molto affettuosa ma anche molto abile a far capire appunto al suo uomo, a questo Livio, che bisogna chiudere il cerchio. E il cerchio va chiuso ritornando a Trento, cercando di incontrare quegli amici che lo avevano aiutato. E qui ci sono appunto le pagine dell'incontro che sono verso fine libro e che mi pare poi diano luogo anche a una continuazione della relazione attraverso una figlia per esempio di questo Giulio, che poi andrà a studiare a Ferrara eccetera, insomma, no? Poi le cose si intrecciano in questo modo. E non so se ho risposto ma l'interessante anche sì. Sempre tu parlavi di sì. Questo intreccio, e io insisto sull'intreccio, e anche questo cercare quel nodo lì fa parte anche di una costruzione proprio logica, una costruzione dell'intreccio in quanto tale, perché è giusto. Sì. Tu hai detto molto bene sul fatto della circolarità, del ritornare. Io questo l'ho sentito molto, e non so quanto, perché è così, questo ve lo dico anche in prima persona. Uno non sa neanche quello esattamente perché scrive una cosa o come mai la scrive. Ecco, ma questo bisogno di tornare al luogo di origine, cioè di tornare a chiudere, non a chiudere, anzi ad aprire, a riaprire questa grande amicizia, a riprendere questa amicizia, però questa amicizia che così era come un sogno lontano, una delle cose che sono passate, che sì era importante, però ecco, fa parte del discorso della circolarità, come tu dicevi, e del discorso di nuovo della tradizione, cioè questa tradizione, questo portare avanti, questo continuare, che è anche, che è anche molto segnato in questa frase che tu hai detto adesso, cioè in questo tipo di tradizione c'è poi la figlia di questa famiglia, di questo Giulio, che andrà probabilmente a studiare a casa loro, eccetera, eccetera. Ma che è anche un tentativo di mettere un paletto al discorso della continuità. Ma comunque, dicevo, anche questo incontro, questa famiglia che lui ricorda, è di nuovo nel senso della tradizione, perché che cosa ricorda di questa famiglia? Ricorda queste bellissimi pranzi, cene, casa sua evidentemente con una madre malata, e il discorso era molto complicato, una madre malata, un padre disperato e un fratello ancora più disperato. Questa famiglia, questo stare in famiglia è così vicino, è messo, è attaccato al discorso della tavola. È la tavola veramente, che lui ricorda, certo. Ricorda come questa mamma apparecchiava il tavolo e quello che le tovaglie, a quadrettoni rossi e bianchi, quello con i fiori gialli. Ecco. Infatti questo suo bisogno di fare casa, di fare famiglia, di riunire gli amici, infatti da qualche parte lo dice: io voglio una cucina grande, io voglio uno spazio dove poter accogliere tutti quelli che vorranno condividere la mia amicizia e anche i miei silenzi, e in qualche modo ricambiare quello che io ho avuto durante l'infanzia appunto da questa famiglia. Quindi c'è tutta una cura dei particolari, il desiderio che è abbastanza inusuale o comunque meno frequente rispetto a come viene avvertito da una donna, no? Che questo uomo voglia avere un certo tipo di casa, calda, che voglia avere una libreria in ogni stanza per poter consultare i suoi libri, eccetera, eccetera. Ma vuole avere, anche una uno cucina, dei miei libri, vuole avere una cucina. Una cucina particolare, certo. Ecco. E questa è anche una delle parti interessantissime del tuo discorso. Lui vuole avere una cucina, però in quello che lui, attraverso la ragione, non attraverso la pancia in, certo, questo senso, certo, pancia intesa proprio come sentimento, come cuore, sì, non come... Ecco, e la vuole la più bella possibile, la più moderna possibile, la più funzionale possibile. Con e qui c'è il germe, proprio il tarlo, diciamo, della coscienza che gli suggerisce la compagna, questa cosetta, che gli dice: guarda, io so che cosa ci vorrebbe nella questa meravigliosa cucina. E questa è una delle invenzioni, secondo me, del tuo libro, una delle più indovinate. Che cosa è? Che cosa diventa il centro, il fulcro? Il centro della casa è sicuramente la cucina, il focolare, ma ancora di più, ancora più centro è questa madia. Questa madia, che è questo mobile antico, con tantissimi cassetti, e i cassetti sono proprio la rappresentazione della memoria, in ogni cassetto qualcosa di diverso, i dolci della nonna, i ricordi, di nuovo il ritornare a quello che è la sua storia, la storia di ragazza, in questo caso della parte femminile. Poi farò un piccolo osservazione sulle due scritture, che sono anche molto interessanti, dicevo, della parte femminile di Cosetta, che ricorda questo tipo di madia in una casa che a lei è molto cara, la casa di sua zia, sì, sì. Una famiglia negozio, che per lei è molto cara, che è un la negozio, bottega, la bottega, la bottega, la dove bottega. Lei a un certo punto da piccolissima può anche vendere, e dove ci sono questi cassetti, ma questa rappresentazione grafica, direi, ma anche così, non soltanto fisica, anche mentale, del luogo dei ricordi, la madia è il, sì, luogo dei ricordi, e quando riescono finalmente a trasportare questo luogo dei ricordi, questa madia, nella casa nuova, è lì la soluzione del discorso, è lì che questa casa diventa casa, certo, almeno secondo acquista, me. Acquista l'anima proprio. Ecco, sì. Di questa madia, se tu leggi un pezzettino, la trovi? Non lo so, cioè, beh, insomma, prova. La cerchiamo senz'altro. Se no... No, avevo aperto qui dove diceva... Dimmi, ti fai quello che le vuoi. Le case sono mute. Ecco, allora quello delle case, sì, è ancora meglio. Allora... Sì. C'è una ragione per cui Livio decide di acquistare quella casa. Solo apparentemente le case sono mute, in realtà custodiscono i segreti delle cose vive, delle vite che sono passate di lì. Tacciono, è vero, ma quando ci si insinua nei loro segreti, lentamente si lasciano penetrare e rivelano i sentimenti di chi ci ha abitato. E magari ci terranno compagnia, mescolandosi ai nostri sentimenti, ai nostri odori, alle nostre impronte. Credo che quella casa mi stesse aspettando. Credo che il grande camino nella stanza adiacente alla cucina sia tale e quale a quello descritto da mio padre nel casolare dove incontrò la prima volta mia madre. Credo che l'abbraccio da cui mi sono sentito fasciato vedendo quel camino non lo sentirò da nessun'altra parte. Credo che il pavimento di graniglia dell'ingresso, una volta levigato, potrà diventare come quello della casa di Giulio. La casa di Giulio da bambino aveva questo pavimento sempre lucidissimo, per cui la mamma che riceveva i bambini diceva: vi portate le pantofole o usate le pattine? E il bimbo Livio dice: cosa sono queste pattine? Io le ho sentite nominare per la prima volta. E lì, insomma, ci sono alcune osservazioni anche buffe su questo. E credo che nel cortile alberato davanti a casa ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno venirmi a trovare, a chiacchierare, a mangiare, a leggere o semplicemente a stare in silenzio con me. Il silenzio fa così paura oggi ed è così bello condividerlo. Anche a Gabriella devo essere grato per come sono ora. La sfuriata che ha segnato la fine della nostra convivenza mi ha fatto molto pensare. Mi sono aperto, ho imparato a fidarmi, credo di essere maturato. Potrò sentire pace dentro me, restituire qualche seme della ricchezza umana incontrata da bambino e più avanti, quando la vita per me avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ecco, questo era quello che vi avevo un po' riassunto prima, e Livio si innamora di questa casa che un amico gli fa vedere, quando vede il camino e quando vede questo pavimento, eccetera, che sono tutti legami rispetto, insomma, sia al racconto del padre, quindi diciamo all'Istria, sia al momento felice, tra l'altro, della vita del padre, quando aveva conosciuto sua madre, questo casolare bellissimo che noi descriviamo anche. Ecco, e poi appunto la casa di Giulio, la mamma di Giulio, che per lui è mitica, e poi anche con lei ci sarà un incontro molto, molto importante, insomma, alla fine. Certo, ecco. Certo, un'altra piccola osservazione che tu fai è, io ho sentito, come posso dirti, ho sentito una mancanza, non so spiegarti questa sì. parola fino in fondo, ma quando tu racconti di questo subito dopo, la descrizione di questa casa, io quando leggo un libro lo leggo una volta, poi lo leggo altre tre volte, perché sennò non so che cosa ho letto. Poi l'ho letto molto più di tre volte, perché l'ho letto anche durante e via via. Comunque volevo dire... Poi ha fatto pezzo sul Corriere domenica. Ma voglio dire che soprattutto io ho sentito questo passaggio in qualche modo che tu non hai, credo, questa è la mia sensibilità, sì. sviluppato, perché... Quando parli di questa casa e questo approccio a questa casa, arriva il discorso abbandono. Cioè ti viene in mente questo personaggio precedente, che è questa sua amica precedente della quale si è separato, e il perché di questo abbandono. Ma non è tanto questo l'abbandono, tu parli di quell'abbandono. Io invece ho vissuto, nel leggere le tue righe, ho vissuto l'abbandono della casa. Ho vissuto quello che è successo a me. Cioè, chiaramente ognuno quando legge, quando vede, quando sente, quando guarda, parla di sé chiaramente. Ho vissuto l'abbandono di una casa e questo abbandono mi sta ancora dentro. E penso, quella casa lì soffrirà del fatto che ci siamo abbandonati. Non so come sia, è una cosa molto buffa da dire. Però, ecco, questo io lo sento anche molto. Lo sento molto anche perché in fondo devi pensare che io che sono più vecchia di te, e anche questo essere portati qui e là, anche per questioni non soltanto questioni di guerra, è una lunga storia di abbandoni, di luoghi che sono stati portati via per vari motivi, e questi luoghi penso che abbiano loro anche una memoria. Di certo, noi, non certo, soltanto di me, certo. Ma di noi in qualche modo. Sì, questa è una cosa. Che... Volevo chiederti una cosa adesso sulla difficoltà che tu hai trovato e che hai risolto molto bene di queste due voci, perché il libro è fatto su due voci, ci sono due scritture, non ci sono due scritture, non è vero. Ci sono due personaggi, un uomo ed una donna. Le scritture sono anche in qualche modo differenziate, un pochettino differenziate, chiaramente sei sempre tu che scrivi, certo. Per forza. Però c'è proprio questo tentativo, che io trovo estremamente interessante, di entrare, come tu hai già fatto notare, nella psicologia dei due personaggi, nella psicologia della tipologia, cioè nel fatto che uno è uno e tu sei una donna. Ecco, sì. In questo senso. E anche se io non sono mai stata del parere che la scrittura delle donne sia diversa da quella degli uomini, questo d'accordo, non, diciamo, d'accordissimo. Non siamo sempre state, ragione per cui non è questo che volevo dire, ma questo... tentativo di dare questo questo modo di esporsi, senz'altro in questo caso è anche molto molto riuscito. Ecco, parliamo allora, visto che abbiamo parlato della nostra tovaglia a quadrettoni, visto che siamo arrivati lì, ecco, che cosa rende anche, perché anche questa forma di, come io lo scrivo anche qui, come la casa che dove io dico i cibi introitati, il tutto per farlo carne della propria carne, per farlo il proprio vissuto, far fare del proprio corpo la propria casa e del proprio vissuto la propria parola. Ecco. E qui anche attraverso questo discorso sul cibo, sì. Tu fai del cibo una storia e fai di questa storia una parola che è memoria attraverso il corpo. Ecco, di questi cibi, di queste cose tu hai addirittura c'è un ultimo paragrafo che ricette polesane, che è molto simpatico. Sono soltanto due, però l'ho trovato molto molto simpatico, perché hai veramente dato questo tocco di proprio di corporeità, di realtà, di vissuto fino in fondo, di entrare nel, perché è giusto entrare nelle cose, non arrivarci soltanto così. E poi volevo chiederti ancora una cosa, secondo me importante, se tu per favore, visto che questo è un libro, come abbiamo detto, un libro in prosa, se tu leggi la poesia che hai messo alla fine? Alla fine del tuo lavoro. È una poesia. Ne ha molte altre molto importanti. Da dove cominciamo? Comincia dall'inizio, comincia da Yolanda Gigetto, Zelma e Giacomo, cioè i personaggi. Sì, ci sono dei personaggi che la mia memoria di bambina, di adolescente, diciamo, ha fotografato, cioè delle persone che ha fotografato e nella sua memoria sono diventati personaggi. Occupano qualche paginetta così a quasi come appendice di questo libro, perché è stato il mio primo, come dire, impatto d'amore con Giocciano e quindi con la sua gente. Yolanda e Gigetto, Zelma e Giacomo, Ceppino, l'Angelina, persone care alla mia memoria, sbucate chissà come e perché da un angolo remoto del cervello. Li avrò fotografate bene? Avrò scelto la giusta esposizione o saranno risultate in controluce? E i vuoti del tempo si possono colmare con pochi ricordi personali e soggettivi? Rifletto, mentre preparo il pranzo, apparecchio la tavola con cura, scambio qualche parola con i miei familiari, ma il pensiero è altrove. Non so trovare risposta. Diverse se ne affacciano, ciascuna con una parte di verità, nessuna soddisfacente. Mi sento travolta da una corrente di emozioni. Forse è rimasto altro da dire. Forse i ricordi vogliono essere ordinati, giustificati. Come trovare il bandolo della matassa? Come acquietarmi? Fa caldo in questo primo pomeriggio di festa. Ho bisogno di stare sola. Cerco la penombra del tinello. Mi siedo, il capo tra le mani, un fiotto di parole preme sul respiro. Non mi resta che ubbidire. Non sapevo di avere radici. Covavano nelle membra e nella pelle, covavano tra le dita, tra i capelli, nei sogni inquieti, perfino creduti, smarriti. Non sapevo, quando varcavo la soglia della casa antica e l'odore delle cose polverose come un sapore mi prendeva che viene da lontano, non sapevo. Quando la luce dagli scuri rinfrescati di Verdone mi sfiorava, con le braccia ingombre ancora e gli incerti passi dell'arrivo dopo mesi di abbandono, non sapevo. Era l'odore delle mie radici, premevano come un canto a labbra chiuse, un lessico così noto da non farsi riconosciuto. Non sapevo. Ora la polpa è liberata e la fonte ha cominciato a zampillare, prima a fiotti con tremore, poi con struggente piacere. E versi sono seguiti, come acqua sorgiva, ora impetuosa, più spesso pacata, assecondando la mia natura. Non si colmano i vuoti del tempo, illuminarli però fa bene. Ecco, io trovo un bellissimo. Nadia Scapini, una grande poetessa. È una bravissima scrittrice, naturalmente, ma te l'ho segnacata. Ma cosa dire? Io ho omesso di ringraziare all'inizio la biblioteca, così, per questo invito che tramite l'interessamento di Bruna Maria mi è stato rivolto, e sono stata davvero contenta di venire qui. So, tra l'altro, avrei anche una domandina da fare, perché so che qualcuno da Rovigo ha avvisato la comunità polesana e Ecco, e mi ha detto di verificare se qualcuno appunto della comunità insomma fosse venuto. Ecco, il Flebero di Gini, non so bene, perché devo dire che in loco sono stati veramente molto contenti di questa cosa, tra l'altro ci sono dei personaggi così, con il loro nome, insomma, a cui ho dato una fisionomia, ma che alla presentazione in paese sono venuti con un entusiasmo e il loro commento è stato: guarda, lo dico in dialetto, ma non so parlare neanche questo dialetto, non so parlare trentino, non ne conosco nemmeno uno. Non si saludemo neanche per strada, però stasera qua si abbracceressimo tutti, mi pare che è così, comunque ci abbracceremo tutti. Quasi. La figura del muratore era con le lacrime agli occhi, veramente, perché si sono sentiti, no? E poi così ho cercato anche di mettere le parti che dovevano essere espresse nella lingua locale, insomma, ho cercato di metterle in dialetto e anche poi per i non indigeni di dare una traduzione. E niente, è stato un lavoro che mi ha davvero appassionata, arricchita, e credo, come poi ho voluto mettere alla fine qualche riga di Flannery O'Connor, che uno scrittore alla fine, posto che io sia una scrittrice, non lo so, sì, insomma, sicuramente. Ecco, in fondo lo fa per svelare un mistero. Mistero che non conosce, non sa nemmeno lui perché comincia, e può darsi che riesca a svelarlo, può darsi che non ci riesca, può darsi che lo sveli ai suoi lettori, ma comunque la cosa importante è che ne avverta la presenza e che comprenda appunto che la vita per buona parte è fatta di ciò che a noi è sconosciuto e che dovremmo cercare di cogliere e di decifrare nei segni che la... Diciamo la natura, ecco, qui per esempio, ricordando certe passeggiate che io ho fatto lungo questa Fossa Maestra, mi parlavano i sassi, mi parlavano gli insetti, mi parlavano le varie piante, che poi non sono mica piante chissà che, ma insomma tutti questi rovi, questi arbusti, queste cose intricate, e lì ho sentito veramente, insomma, dei segni che... dei segnali che arrivavano a me, allora li ho cacciati nel personaggio. Sicuramente. Ecco, li ho sicuramente mossi un pochino. E l'ultima frase, questa è: credo che uno scrittore serio descriva l'azione solo per svelarne un mistero. Naturalmente può essere che lo riveli a se stesso, oltre che al suo pubblico, e può anche essere che non riesca a rivelarlo nemmeno a se stesso, ma credo che non possa fare a meno di sentirne la presenza. Ecco, questa è esattamente la frase di quale tu parlavi, che hai citato. Questo libro finisce con questo ed inizia invece con un discorso altrettanto importante che tu ti faccio leggere, che è un discorso di Magri sul viaggio. Sì. Il viaggio sempre ricomincia. Sì, è proprio questo, il senso del viaggio e le due nostalgie di cui parlava Bruna Maria, che sono di Livio e di Cosetta. Alla fine mi è parso di capire che si uniscano in un canto, perché le due nostalgie diventano un canto. Il viaggio sempre ricomincia, ha sempre da ricominciare, come l'esistenza, e ogni sua annotazione è un prologo. Se il percorso nel mondo si trasferisce nella scrittura, esso si prolunga nel trasloco dalla realtà alla carta. Scrivere appunti, ritoccarli, cancellarli parzialmente, riscriverli, spostarli, variarli la disposizione, così come avviene nella nostra vita, nelle nostre case, se la casa per noi rappresenta qualcosa di vivo, se ci rappresenta, insomma, se abbiamo bisogno che... ci aiuti anche a vivere meglio, credo che sia proprio così, insomma, non c'è mai nulla di definitivo. Guai, no? Guai, certo. Se così fosse. Ti ringraziamo moltissimo, però adesso se voi avete delle domande, certo, da fare, io credo che Nadia sia dispostissima a rispondere. Molto volentieri, siamo proprio in famiglia, mi sento a casa, quindi ecco, l'atmosfera casa, è la giusta. Ecco, vedi casa, della casa. Ecco. Qualcuno? Tu. Non saprei, no, è che me ne fate leggere alcune, possiamo dirlo, no? In Grecia, sì. Mi diceva, lì, sono delle cose, non avete parlato di questa comunità? Ah, sì, sì, è Repubblica vero, di Bosgantia. Sì, ecco. Questo è una notizia estremamente interessante che, fra il resto, tu ne hai scritto e quest'estate sul Corriere o sulla Repubblica, non so dov'è che l'avevamo visto, sul Corriere c'era stato un grandissimo articolo. Sulla Repubblica di Bosgarcia? Sì, sì. Secondo me sì, l'hanno sì. fatto perché io, allora, quando ho letto che Veltroni ha imbastito il suo romanzo su quella esperienza così al largo, sulla riviera Adriatica, al largo di Rimini, di Riccione, eccetera, dalla memoria, sì, sì, dico adesso mi ricordo, eccetera, ho detto accidenti, guarda lì che bel libro, adesso devo fare un libro sulla Repubblica di Bosgantia pure io, solo. È un'esperienza straordinaria questa, non so. Ecco, se un po', racconta un po' parlare. Che cos'è questa Repubblica Ma, di Bosgantia. Allora, io qualcosa ricordo di aver sentito in famiglia, insomma, da bambina, e poi me ne... Tempo successivo me ne parlò anche mio marito che era vissuto da quelle parti con il papà e il papà tra l'altro c'era proprio stato in questa Repubblica di Bosgantia che non è altro che un'isoletta che adesso non esiste più, diciamo vicino ad Adria, per capirci, Panarella, Papozze, insomma in quella zona lì, dove un certo professor Salvini, che era uno slavista di fama internazionale, docente universitario, eccetera, aveva deciso, eravamo nel 45, quindi insomma guerra appena terminata, con insomma tutto quello che c'era alle spalle, quindi probabilmente c'era un bisogno di, come dire, anche di utopia. Allora lui aveva iniziato questa esperienza radunando, immagino, all'inizio alcuni suoi studenti e poi invitando chi desiderasse trascorrere un'estate, diciamo una vacanza un po' singolare, su questa isoletta dove si recavano con la barca e dove la condizione era di non portare, cioè che non ci fosse luce elettrica, non portare radio, non portare insomma niente che mettesse in collegamento con il mondo esterno, nemmeno denaro, infatti battevano moneta, avevano tutta una loro, e dovevano procurarsi il cibo andando a caccia o a pesca, e quindi c'erano tutto da fare, insomma ciascuno doveva fare le proprie corvée, eccetera eccetera. Questa cosa prese piede e direi che si diffuse, adesso non so se esagero a dire in tutto il mondo, ma fatto sta che comunque dall'Europa, da tutta Europa vennero docenti universitari, insomma pittori, perché poi c'è tutto l'elenco, mi ero documentata, insomma ogni genere di persona. E lì vissero questa esperienza meravigliosa, esperienza che durò poi diciamo 10 anni e che si concluse per la morte di Salvini. Insomma. Ecco, poi ci sono appunto documenti, ci sono cose interessantissime che ci raccontano di questa esperienza. Io invento proprio per farla raccontare un personaggio della zona che c'era stato da ragazzo e che in dialetto trasferisce queste sue emozioni che aveva vissuto, che sono diventate in italiano, un mito, non te lo faccio leggere, sono diventate un mito perché ogni persona che incontra, diciamo nella storia, lui è anziano. C'è ancora un momento vero di tempo, leggile, va là. Ecco, lui è anziano e a tutti vorrebbe raccontare questa sua esperienza che è diventata appunto un mito. Ecco, sei a pagina 91. Allora, dove cominciamo? Sì. Aspetta. Per andare ecco con l'ordine. Cosa. Ecco. Allora, dov'è, scusa, per andare con l'ordine? Per andare con l'ordine. Qua. Ah, allora, per procedere con ordine, a questo professore un giorno, questa è la traduzione, quindi la non badate a traduzione del dialetto, a questo professore un giorno venne in mente di organizzare una specie di repubblica autonoma, del tipo di quella che a Bossi non permettono di fare nell'Alta Italia, con i suoi francobolli e la sua moneta su una piccola isola formata dal Po a Panarella di Papozze, subito dopo l'incile tra il Po di Venezia e il Po di Goro. E lì, durante l'estate, molti studiosi e persone di ogni ceto sociale e professione decidevano di trascorrere le vacanze senza alcuna regola, se non quella del reciproco rispetto ed aiuto. La guerra era da poco terminata e tutti avevamo desiderio di distrarci. Mi capisce, professore? E questo Salvini, dunque, aveva una gran bella fantasia. Allora, c'è il dialogo. Ma scusate, questa bosgattia ha a che fare col maiale, mi sembra di capire. Il bosgatto non è il maiale nel vostro dialetto? Il bosgatto. Porco cane, eh? Sì. Ancora ce lo legge in dialetto? Dolo, eh? Aspetta. Daglielo. Grazie. È vero, bravo. Okay. Coinvolto al massimo. Non mi vero, bravo, bolgato, lo proprio dire maiale de no altri, ma stavolta è storion, la più valorosa delle prede del fiume, la più difficile da ciappare, e il tamiso è il setaccio, che sia la gran rete che tamisa le acque. Cerco di dare un accento rodigoso, ma è abbastanza significato, vero? La Repubblica la funzionava da luglio a settembre. Luglio. Il mio correttore, sì. Come le vacanze del professor Salvini, e tutti dove andare, a caccia o a pesca per procurarsi il maiale. All'alba che era l'alza bandiera, e dopo ognuno, quello lì in mezzo, andava così da fare come detto. Si era messo d'accordo la sera prima. C'era da preparare le reti, la barca, fare ordine agli ami e le lenze, controllare i motori a seconda che si voleva andare a pesca, a esplorare il fiume o arrivare fino all'Adriatico. È molto italianizzato, eh. Ma c'è, allora, due cose. Primo, ovviamente io ho fatto controllare da uno del posto, eccetera. Ma poi c'è tutto un dialogo tra l'amico di Livio che dice cerca di parlare in italiano, e allora lui cerca di farsi capire, quindi senti come riesce. Se stava sotto semplici tende e per la luce che era la bombola del gas. Niente giornali, niente radio, niente grammofoni per godersi un poco di musica, insomma niente affari col mondo che stava fuori dall'isola. Io, professore, deve sapere che ci sono stato con mio zio farmacista che non era sposato, e quando poteva mi portava a Drio con lui a vedere un poco del mondo. L'avrei voluto che anche mi studiasse, ma fine che aveva voglia, e quei libri mi stufavo subito. Ha dato il massimo dell'Isarao. Grazie. Petra, me lo prendi. Grazie. Scusa. Ecco, vedi che abbiamo dato anche il tocco giusto alle cose. No, ecco. No. Bene. Allora, se avete domande, a parte questa che era una cosa giustissima, che io me l'ero quasi dimenticata, perché questo sogno in fondo di una zona, di una repubblica, di un'utopia, in fondo era anche quella degli artisti di Riva, in qualche modo, sai? Anche quello Matveevich aveva in quell'isola del Guarnaro. Certo. Più sociopolitica, perché lì erano artisti che si radunavano, e erano anche quelli della Carta 72 di Praga, Certo, c'è proprio il periodo di questo tipo di utopia, che sarebbe bello in fondo. Diamoci un po' di utopia ancora, dai, per Bacco. Bella storia. Poche isole. È una bella storia del Trieste. José Marias, pittore, no? E a un certo punto gli avevano regalato un'isola, qualche principe, capo di qualche isolotto del Pacifico, gli aveva regalato uno scoglio, ma non sì. Ed era diventato re di questo scoglio, che non mi ricordo neanche più come si chiama, però aveva battuto moneta, cioè, e aveva creato intorno a sé alcuni accoliti che non avevano neanche mai potuto atterrare su questo scoglio, perché era proprio scoglio, non era. Però era diventata l'isola di utopia, no, per loro. E infatti José Marias in un suo libro ne parla. Cioè c'è la voglia di farci. È difficile. Certo. Ecco, allora sull'utopia, se avete altre domande, sui nostri sogni, sulla speranza del ritorno, sulla voglia di ritornare, sulla voglia di casa, tutte queste cose meravigliose. Ringraziamo Nadia Scapini. No, io avevo iniziato i ringraziamenti qui alla biblioteca, secondo ringraziamento a tutti coloro che sono presenti e che hanno sacrificato un po' del loro tempo per venire qui. Mi auguro, insomma, che ecco, non se ne vadano così, diciamo, dispiaciuti o delusi. E poi ringraziamento più grande all'amica Bruna Maria, che veramente ha fatto la prima lettura del lavoro abbozzato e poi ne ha scritto in maniera veramente splendida, vedendo nella treccia di Cosetta l'intreccio trama ordito eccetera. E aggiungo una cosa: noi ci siamo conosciute per via di Paola, ma io partecipai ad un concorso di cui tu eri presidente sulle fiabe, certo. Ecco, e tu mi segnalasti, perché evidentemente ti era piaciuta, ed era una fiaba, l'unica che ho scritto, ambientata in un paesino meraviglioso della Slovenia che si chiama Ledine. Ecco, vedi. Visto? Tutti i fili tutti che tornano. Si intrecciano. Se voi volete qualche libro della nostra amica, credo che ci siano e mi farò io compito. Ho chiesto, visto che c'è difficoltà a Bolzano, ho chiesto in conto vendita a Libreria di Trento, quindi se qualcuno vuole, venite qui e io farò la venditrice.